crotone di giorno, questo è crotone di notte, questo è crotone quando piove, questo è quando smette, questo è crotone di giorno, questo è crotone di notte, questo è crotone quando piove, questo è quando smette, non cambia e non vuole cambiare, la situazione è quella e deve restare, a crotone rinchiusi come in prigione, senza svago, divertimento ma solo passione, verso una terra che bene non mi vuole, che appena mi giro mi vuole fare le suole. Mentalità cittadina come quella paesana, 70.000 persone ma messe in fila indiana. Tutti si conoscono, tutti sanno chi sei, tutti hanno voglia di farsi i fatti tuoi. Grande la città, grande la popolazione, tutto da noi sale anche la disoccupazione. Si fa la fame ma tutti sono ricchi, ci si lamenta ma tutti sono ricchi. Ormai è questo, e cosa ci puoi fare? Abituati anche i figli non li riuscirai a fermare. A questo punto non ti riesci neanche tu a fermare. Vuoi reclamare un bene a tuo figlio per non farlo stare? Male, male, male, ma questo è peggio. Lo vedrai schiantato contro un albero in Viareggio. Yo. Perché questo è crotone di giorno, questo è crotone di notte, questo è crotone quando piove, questo è quando smette. Questo è crotone di giorno, questo è crotone di notte, questo è crotone quando piove, questo è quando smette. Yo. Ed è molto triste la situazione quando la famiglia non è più un padrone della vita del ragazzo che ha cresciuto, che poi è uscito la sera e si è ammazzato, ed ogni santa sera si litiga con qualcuno, ed ogni santa sera ci sono i capi di nessuno, del niente, che scorrono il mondo convinti di essere immensi e di non essere mai stati vinti. Sconfitti già in partenza, ma è la mentalità, si nasce già imparati perché così qua, ma in fondo Crotone sarà una bella città, basta che non giri col 64esimo fra. Yo, yo, è l'ennesimo, yo, è sempre così qui da noi, perché? Perché? Perché? Perché questo è crotone di giorno, perché questo è di notte, perché questo c'è quando piove, questo c'è quando smette. Crotone questo e non vuole cambiare, ormai è quello e quello vuole restare. Non c'è voglia, non c'è interesse nel fare qualcosa di utile per poter migliorare. Fanculo tutto questo, fanculo tutto il resto, io resto qui perché è questo che mi tiene in vita il più presto.